as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua, di nuovo dal pane delle rose. Settimana scorsa, vi ricordate, è stata una bellissima puntata in cui Alessandra Testa ha intervistato il segretario regionale della FIOM. Oggi sono tornato, visto che ho partecipato come delegato all'assemblea del 20 gennaio che si è svolta in CGIL, l'assemblea dell'area sindacale, così chiamata, di estrema sinistra della CGIL, le giornate di marzo, di cui anch'io faccio parte. Ricordate, chi segue va nella mia pagina Il Pane Rose, può trovare i podcast, ci sono puntate dedicate proprio a quegli anni, nel 2020 abbiamo fatto delle puntate durante la lotta che abbiamo realizzato in tante aziende, 150 aziende si sono mosse per dire noi non possiamo lavorare senza sicurezza durante il Covid, vi ricordate c'erano i morti e lì ci fu qualcosa di importante, andatevi a seguire le puntate, andate a cercare. Scioperi spontanei, all'inizio la CGIL era smarrita, anche la FIOM non sapeva ancora come comportarsi, nessuno stava scioperando in Europa, noi in Italia invece abbiamo detto che non era possibile, che uno non poteva uscire di casa però poteva andare a lavorare non in sicurezza, senza mascherine, senza sistemi per potersi salvare, visto i morti che stavano avvenendo in tanti luoghi, soprattutto a nord, nel Bergamasco, nelle fabbriche moriva la gente, anche a Bologna sono morti dei lavoratori, abbiamo deciso di scioperare in maniera spontanea. Poi chiaramente i sindacati sono venuti dietro, ci hanno dato l'agibilità per poter scioperare, fino a quando Landini con Conte hanno deciso poi di chiudere le fabbriche. Ora, le giornate di marzo partono proprio da questo principio. Mario Iavazzi, che è il nostro coordinatore, spiega l'area sindacale quello che vuole realizzare in questo periodo e perché ci siamo incontrati in questa assemblea. Adesso ascoltiamo un bellissimo pezzo musicale della storia delle canzoni delle lotte operaie americane, perché insomma capirete che gli Stati Uniti d'America c'entrano molto in questo momento per quanto riguarda le azioni che vogliamo fare all'interno dell'area. E poi ci sentiamo l'intervista a Mario Iavazzi che ho fatto io e poi ci sentiamo anche per le conclusioni. A dopo. We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the boss's wiser. Brothers and our sisters in many far off lands, there is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and unjust laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. There Allora, ciao Mario, siamo qui con Mario Iavazzi, che è funzionario della funzione pubblica, ma oggi è qui in veste di coordinatore dell'area sindacale giornale di marzo all'interno della CGL. C'è stata oggi a Bologna, 20 gennaio, una bellissima assemblea che ha visto la presenza di più di 100 delegati, c'erano anche alcuni invitati che rappresentavano un po' tutta l'Italia, l'area in tutta l'Italia, sono venuti da varie parti, ho visto compagni dal Trentino fino a giù, alla Calabria, alla Campania. Voglio dirti, insomma, ho visto il tuo intervento, ho ascoltato il tuo intervento, ho visto anche le tue conclusioni. Giornale di marzo, le giornate di marzo, insomma, parlici un po' dell'area, perché gli ascoltatori vogliono capire l'area, insomma, cosa vuole fare, visto che hai parlato di sfide importanti, di un momento storico importante per i lavoratori italiani. Insomma, raccontaci un po'. Sì, l'assemblea è stata molto positiva, come dicevi tu, erano presenti oltre 100 lavoratori, di cui 60 delegati eletti nelle conferenze locali e altri 40 invitati, perché abbiamo fatto un percorso di discussione in diversi territori, abbiamo fatto una conferenza in 17 città e poi siamo giunti qua a Bologna a questa conferenza nazionale. Ma la nostra area nasce nel 2020, molto rapidamente, è nata appunto, ha preso ispirazione dalle giornate di marzo del 2020, quando i lavoratori si autoconvocarono ed imposero attraverso il loro protagonismo una strategia sindacale diversa, fondamentalmente, cioè l'idea per cui il governo di allora e i padroni non potevano e non dovevano permettersi di imporre ai lavoratori di lavorare mentre tutto era chiuso e di lavorare anche ai settori non essenziali. E quindi, diciamo, abbiamo preso ispirazione da quel movimento dal basso, perché riteniamo che solo questo tipo di movimento può cambiare le cose oggi, a partire, diciamo, da una strategia di sindacale che dal nostro punto di vista è inadeguata. Ecco, l'inadeguatezza lo vediamo anche e soprattutto oggi. Siamo venuti dagli scioperi generali, che noi abbiamo definito scioperi a rate, perché ci sono state diverse giornate di sciopero, come dire, senza unificarle, e disarticolandole, diciamo. Il problema è che adesso c'è un disorientamento generale. Nell'ultima assemblea generale a cui ho partecipato il 18 e il 19 di gennaio c'era obiettivamente un elemento, diciamo, che rappresentava un'impotenza da parte della direzione sindacale, cioè che non sa bene cosa fare adesso. Questo è un problema. Noi pensiamo che si debba dare continuità alle lotte lottando, non ci sono scorciatoie, non ci sono alternative e alle politiche di questo governo e non solo, bisogna rispondere con una lotta che sia incisiva e che prenda anche ispirazione dalla lotta internazionale che abbiamo visto e che pure abbiamo discusso in questa conferenza. Infatti tu hai parlato delle lotte che ci sono state in Inghilterra, negli Stati Uniti, hai parlato di diverse tipologie di battaglie. E quali sono le rivendicazioni? Però abbiamo votato, anche io ero delegato, abbiamo votato un testo in cui noi chiediamo delle cose ben precise, che diciamo quello che vogliamo fare. Ma guarda, noi abbiamo fatto riferimento a una serie di lotte, l'automotive negli Stati Uniti, piuttosto che rivendicazioni che stanno producendo i lavoratori qua e là. Penso a una informazione che ci è arrivata in questi giorni di una lotta che sta nascendo in un birrificio, anzi nel settore della birra negli Stati Uniti, nel quale i lavoratori al 99% hanno votato una piattaforma che chiede aumenti del 35%. Ecco, piattaforma e metodo è quello che manca in Italia, e cioè una piattaforma che sia in grado di rispondere ai bisogni reali dei lavoratori. Noi abbiamo rivendicato in passato una lotta sulla scala mobile e il gruppo dirigente della CGL ha rifiutato di intraprendere questa mobilitazione. Rivendichiamo che nei contratti nazionali oggi si lotti per aumenti del 30%, così come stanno rivendicando lavoratori in diverse parti del mondo, e oggi invece una piattaforma così avanzata sui rinnovi dei contratti nazionali non si vede. Ecco, noi pensiamo che i lavoratori hanno bisogno, diciamo, di sentire la convinzione e la determinazione nella lotta, questo sia in primo luogo nella piattaforma, ma anche appunto nel metodo di lotta. Ecco, il fatto che si siano proclamati degli scioperi, dal 17 di novembre al 1 dicembre e siamo a fine gennaio e non c'è una continuità di quelle lotte. Negli Stati Uniti la lotta nell'automotive è durata 6 settimane con tanto di piattaforma e tanto di esito. Ecco, e questo è quello che manca nel nostro paese, e c'è un gruppo dirigente che trasmetta ai lavoratori la necessità di lottare per davvero, di bloccare questo paese quando fa gli scioperi generali, di colpire le aziende. Altro esempio, Stellantis negli Stati Uniti dichiarava perdite di 40 milioni di dollari al giorno. Oggi nessuna impresa quando si sciopera può effettivamente dichiarare una perdita del genere, e quindi diciamo nessuna sciopera oggi è in grado di mettere in ginocchio delle grandi aziende. Ecco, quello che ci vuole è appunto una maggiore determinazione, e pensiamo che sia il momento necessario. Dobbiamo ripartire dai contratti allora, che sono scaduti. Quanti milioni sono oggi in Italia? Ma 6 milioni e mezzo, 7 milioni di lavoratori sono senza contratto, e nel prossimo periodo ne scadranno altri. Ieri si dava il dato che probabilmente si arriverà a 10 milioni di lavoratori senza contratto, penso a giugno, quando appunto scadrà anche il contratto dei metalmeccanici. Piattaforme avanzate, lotte vere che siano in grado appunto di mettere in ginocchio le associazioni patronali e strappare dei contratti veri e buoni che siano adeguati. Ma permettimi di dire un'ultima cosa: io penso, diciamo, che sia il momento da parte dei lavoratori, e quindi dal basso, di diventare protagonisti. Esattamente come nelle giornate di marzo, è necessario che i lavoratori prendano ispirazione anche dai movimenti di autoconvocazione e di auto-organizzazione, che non vuol dire farlo, come dire, a prescindere dal sindacato, ma vuol dire essere consapevoli che oggi solo dal basso è possibile costringere, uso la parola, come dire, che mi sembra più appropriata, il gruppo dirigente a seguire ciò che i lavoratori chiedono, i lavoratori di cui hanno effettivamente bisogno. Ecco, e quindi quello a cui ci ispiriamo è alle lotte che ci sono, ma anche, diciamo, alla capacità dei lavoratori e delle lavoratrici di imporle quelle lotte che probabilmente dall'alto forse non arriveranno mai, o non arriveranno mai così come è necessario che siano. Dunque è una battaglia che dovremmo fare, dico dovremmo perché sono anch'io dentro, all'interno, chiaramente nei luoghi di lavoro, nei tutti i posti in cui ci si incontrano i delegati, negli attivi, nei direttivi, per chiedere questo, per spingere i lavoratori e i delegati sindacali a fare questo. Saremo in prima fila nel presentare piattaforme alternative quando sarà necessario, saremo in prima fila a spingere i lavoratori a irrompere, diciamo, nella scena del dibattito e scavalcare questo muro che a volte è il gruppo dirigente del principale sindacato in Italia, e saremo in prima fila a stare, diciamo, tra le lavoratrici e i lavoratori e spiegare ai dirigenti sindacali che saremo con loro se lotteranno, ma siamo pronti e saranno pronti i lavoratori a scavalcarli nel momento in cui, diciamo, fungeranno da freno alle lotte che appunto sempre più saranno necessarie. E dunque con i dirigenti sindacali, come ha detto Claudio Bellotti, con i dirigenti sindacali oppure senza di loro, o se si metteranno contro, anche contro di loro. Questo è lo spirito che è emerso da questa conferenza. Ok, grazie. This land is your land, this land is my land, on California, New York Island, from Redwood Forest to Gulf Stream waters. This land was made for you and me. This land is walking that ribbon highway. I saw a boat and the skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. This land is rambling, full of my footsteps to the sparkling sand.

Avete ascoltato prima del pezzo musicale l'intervista che ho fatto a Mario Iavazzi, coordinatore dell'area legionaria di marzo. Per chi si fosse persa l'introduzione, il 20 gennaio c'è stata questa assemblea di delegati dell'area, assemblea nazionale dell'area legionaria di marzo, l'area di sinistra della CGIL. Non so se tutti lo sanno, ma la CGIL all'interno ha più aree sindacali, questo da sempre è una storia di democrazia sindacale, ripeto, la CGIL ha tanti difetti, ma una cosa è sicura, che ha una democrazia sindacale che non c'ha nessun altro sindacato, e i sindacati di base se lo sognano questo, no? Quando si dice i sindacati di base, all'interno dei sindacati di base, per quanto riguarda la democrazia, così anche per gli altri sindacati, veramente inesistente. La CGIL è un grandissimo sindacato che ha sempre avuto una serie di aree all'interno che più o meno da destra fino a sinistra poi rappresentano un po' tutte le idee che ci sono all'interno della CGIL, insomma, si esprimono queste varie sensibilità, così chiamiamo. L'area regionale di marzo è una sensibilità molto a sinistra, fatta di compagni che sono considerati all'interno della CGIL, insomma, di più a sinistra, da cui ci sono anch'io. È un'area fondamentalmente comunista, ci sono pochi che non sono comunisti all'interno dell'area, quasi nessuno. Ora, io voglio dire solo una cosa: Mario ha detto delle cose importanti, no? Ha spiegato come in questo momento l'area ha un preciso obiettivo, quello di stimolare la CGIL a rivendicare piattaforme che vadano ad incidere realmente sulla vita dei lavoratori, così come è stato fatto negli Stati Uniti d'America, come sono stati fatti in Inghilterra durante gli scioperi che ci sono stati l'anno scorso, nel senso che c'è un'inflazione alta, si chiedono piattaforme con aumenti consistenti, si chiede la scala mobile, si chiede il recupero di quello che si è perso, in più quello che si è fatto guadagnare. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, questi anni i padroni hanno incassato tantissimi soldi e sono sempre più arricchiti, perché non c'è stata redistribuzione di quello che noi come lavoratori abbiamo prodotto e fatto guadagnare. E dunque, anche se ci troviamo in una situazione difficile a livello economico, ma dobbiamo rivendicare comunque salari importanti, aumenti importanti in tutte le categorie, la scala mobile, dunque un adeguamento all'inflazione automatico, quello che hanno fatto anche negli Stati Uniti d'America i sindacati all'interno dell'automotive, delle multinazionali più importanti, e soprattutto iniziare a coinvolgere i delegati in questa battaglia, perché così come è successo nel 2020, laddove la CGIL, e purtroppo vediamo che c'è un po' di immobilismo, perché Landini aveva detto che avremmo continuato, però stiamo vedendo che di nuovo ci siamo fermati, bisogna andare avanti e non bisogna fermarsi. Bisogna che le lotte siano incisive, continuative, credibili, non bisogna fermarsi in questo momento. C'è una finanziaria che ci sta spaccando l'Italia, c'è una finanziaria che sta colpendo tantissimo il nostro salario indiretto, ne abbiamo parlato già nelle scorse puntate, non dimentichiamo mai che noi chiediamo il salario diretto, ma c'è il problema del salario indiretto, sarebbe tutti quei soldi che noi paghiamo quando non abbiamo lo stato sociale che funzioni, perché se io devo pagarmi la scuola, devo pagarmi la sanità, devo pagarmi le pensioni, è tutto salario che io perdo, e questo è il salario che ci stanno rubando. Per questo c'è bisogno di una mobilitazione che affronti anche la questione dei diritti, perché la classe è spaccata, se non affrontiamo la questione della precarietà non riusciamo a coinvolgere i giovani, non riusciamo ad unirci, c'è il problema degli appalti, sempre più le aziende con la scusa degli appalti dividono i lavoratori, c'è la questione del salario minimo, tutte questioni importanti che vanno affrontate in maniera seria, combattiva, con lotte che devono essere incisive e durare tanto. Ecco, questo è il nostro compito che dobbiamo fare, e ripeto, lo slogan che nell'intervista io ho detto è importante, lo vogliamo fare con il sindacato, laddove il sindacato non è con noi, anche senza il sindacato, ma laddove il sindacato si mette di traverso anche contro le decisioni del sindacato che non vogliono che noi facciamo queste certe battaglie, dunque fino ad arrivare agli autoconvocati, fino ad arrivare agli scioperi spontanei, tutti i luoghi di lavoro, e se questo accadrà è solo qualcosa di positivo, ecco. Ci sentiamo alla prossima puntata, e ci saranno varie interviste importanti, ritorneremo nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro. Alla prossima puntata. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar.